La scrittrice Barbara Alberti ha scelto l'esilio. Era da tempo nota la sua decisione di ritirarsi dal mondo. Vive nel faro di Capo Finisterre, all'estremo occidente della Spagna. Da questo luogo, l'esule Barbara Alberti continuerà a tenere vivo il contatto con le donne che la interpellano per consigli in questione di cuore e qualche suo raro amico. Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поёшь. La guardiana del faro. Шарманка, шарлатанка, куда меня зовёшь. Voci e pensieri per Barbara Alberti. Шагаю еле-еле. Sotto i rami verdi del melo, che mai scuoterà la tempesta, la donna mia ha la sua casa fra due pergolati, nell'uno e nell'altro rose rosse piene di pioggia. Per schiave ella possiede ogni specie di fiore. Questo è Swinburne, il poeta inglese che fu cantore dell'amore, il poeta delle rose, squisitamente maledetto, che Ezra Pound chiamava il musico della lingua. Swinburne nacque 14 anni dopo la morte di Byron e come Byron ebbe la scomoda gloria di vedere le sue opere mandate al macero o sul punto di finirci per il terremoto di proteste che scatenavano fra i ben pensanti. Anche a lui, come a Byron, i posteri hanno mancato di rispetto, nascondendo il suo amore per i maschi. Perché non so perché chi, dopo la morte, scrive dei grandi, deve sempre mascherare gli artisti come se li stessero vestendo per la prima comunione, e invece no, li stanno consegnando a noi. In questo nostro tempo così poco attrezzato per la gioia, anche linguistica, oggi si direbbe di Swinburne, sì, un sadomasochista, ma questa definizione non dice nulla della tensione così fervida che Swinburne aveva per la flagellazione, questo balenare di sangue e di ferite, sempre insieme all'amore nei suoi versi. Poeta decadente, poeta drammatico, eppure c'è sempre qualcosa di ilare quando lo racconta lui nel sibilare dello scudiscio. Londra 1837. Siamo in una elegante casa della elegante Grosvenor Place e nasce un bambino piccolo piccolo, con due manini, con due piedini, in lui tutto è miniatura, salvo due cose: il lungo naso e una enorme capigliatura rossa e riccia, che ai tempi delle streghe veniva considerato un sicuro segno diabolico. È nato Algernon Charles Swinburne, che diventerà un grande poeta e uno dei più grandi scandali dell'epoca vittoriana. Il piccolo Charles cresce nell'isola di Wight, in una splendida e bizzarra casa, dove passa un'infanzia colta e selvaggia, e per compagna di giochi ha la cugina Mary, coetanea, con la quale, precoce in tutto, scopre anche la chiave del suo desiderio: la sofferenza. Questi due bambini giocano spensierati a pungersi l'uno con l'altro, con gli spini, a farsi uscire il sangue, a leccarlo, a fingere di uccidersi e a baciarsi dopo morti. Oltre alle soffitte sterminate dove si inseguono con la cugina per farsi male, c'è un'altra cosa sterminata nella casa, ed è la preziosa biblioteca del nonno, una biblioteca in gran parte francese, sulla quale il piccolo si butta, impara subito a leggere non solo, ma acquisisce una precocissima conoscenza di lingue e letteratura. È un vero enfant prodige. E Leopardi felice, senza un padre come Monaldo e senza la gobba. Suo cugino lo descrive così: stranamente minuto, aveva membra piccole e delicate e le spalle ricurve apparivano troppo deboli per sorreggere la grande testa, che la massa arruffata di capelli rossi faceva sembrare ancora più grande. Questa zanzara dalla grande chioma, però, è un atleta, nuotatore come Byron, scalatore di montagne, e gli farà un ritratto Dante Gabriel Rossetti, dove lui è bello, dove gli attribuisce una grazia di fanciulla, e quindi fu bello almeno una volta negli occhi dell'amico. Ayton scopre di essere poeta, comincia a scrivere e, quando verrà la regina Vittoria in visita al college, scrive una composizione encomiastica, e ci possiamo immaginare l'incontro di questi due ragazzini, geniali e bruttarelli tutte e due, dove uno dei due però è la regina. Stone, love, this life to save a slogan that hovers between the headstone and her eyes. Ayton Swinburne si comporta come farà Oscar Wilde qualche anno dopo. Non fa che stupire il prossimo. È scandaloso, un po' gli piace, lo fa apposta. È un po' lui è così di natura. Ed è sempre sul punto di essere cacciato via. E comunque viene punito di continuo. Perché si sa che nei college inglesi menano. Punizioni corporali, botte da orbi, frustate. Lui è entusiasta. Si sta precisando la grande vocazione della sua vita oltre alla poesia, che ha già assaporato da bambino, ed è il piacere attraverso il dolore. Altro che i giochetti con la cugina Mary, li fanno sul serio, e più gliene davano, e più era contento. Faceva di tutto per meritarle. E più tardi, da vecchio, scriverà Eton un'altra ode, dove racconta delle frustate riuscendo a renderle seducenti, e rievoca con rimpianto nei versi il suono che gli è più caro, quello dello scudiscio. Parla il maestro che lo sta picchiando. Dimmi, Swinburne, questa vergogna brucia così tanto? Swish, swish. T'ho scorticato ben bene, ragazzo mio. Ti brucia dentro? Ho domato il tuo orgoglio? Sono contento di vedere quanto ti fa male. Swish, swish. Io spero che la lezione ti giovi. Swish, sta su. Per Dio, t'ho conciato davvero per le feste. E poi a Oxford ci sarà il grande incontro. Un colpo di fortuna artistica e umana, perché lì, nello stesso momento di Swinburne, ci sono anche i grandi scapigliati dell'epoca, i pittori preraffaelliti. C'è Dante Gabriel Rossetti, c'è Burne Jones, c'è Morris, che devono decorare i soffitti della sala dei dibattiti del college. Swinburne si innamora di colpo di tutti e tre, e loro di lui, non in senso erotico, in senso artistico e umano, ed è una deflagrazione di idee e di passione. Poi gli amici partono, e Oxford diventa vuota. Swinburne si consola dedicandosi alla scrittura dei suoi argomenti preferiti, per esempio Caterina de' Medici, la grande macellaia cattolica sulla notte di San Bartolomeo. E poi a Londra ci sarà un altro grande incontro. Si innamora riamato di Richard Monckton Miles, un grande intellettuale, collezionista di opere erotiche, che gli fa un dono. Gli fa leggere finalmente il Marchese de Sade e lo introduce presso un gruppo di raffinati sadici inglesi, che sono tutti colti, tutti artisti. È una grande felicità. Stavamo parlando di Algernon Charles Swinburne, un grande poeta chiamato il musico della lingua, che fu anche uno dei più grandi scandali dell'epoca vittoriana. Swinburne poi andrà anche a vivere a casa dell'amato Dante Gabriel Rossetti e di sua moglie, la bella Lizzie Seidel, che appare in tanti quadri di Rossetti. Fra Lizzie e Algernon Charles c'è una immediata attrazione, fulminea. Un testimone del tempo dice: erano sempre intenti a giocare sotto lo sguardo paterno di Rossetti. E Rossetti traeva grande diletto dalla loro innocente intimità. Di tanto in tanto li richiamava all'ordine, come una coppia di incantevoli gatti d'angora che giocavano troppo rumorosamente insieme. Lizzie e anche altri nel gruppo preraffaellita chiamavano Swinburne Little Carrot, cioè carotina. Poi Lizzie, che era malata da molto tempo, si uccide bevendo il laudano. Tornerà ancora nei quadri del marito e allora Swinburne e lui si mettono a vivere insieme. E Rossetti tenta inutilmente di convertirlo alla eterosessualità, tanto che pagheranno anche un artista di circo che allora interpretava al circo la parte di Mazeppa dal dramma di Byron, una spiritosissima donna, che però anche lei a un certo punto ridà i soldi e dice: mi dispiace, io non riesco a fargli capire che mordere non serve a niente. Me divorano i giorni roventi e affamati. E nella mia bocca nessuno dei loro frutti è dolce. Non i loro frutti, ma i frutti del mio desiderio, per amore di colei le cui labbra respirano tra le mie. Le palpebre sui suoi occhi sono fiore su fiore. Le mie sui miei occhi sono fuoco su fuoco. Così giaciamo, non come sonno che giace con la morte, con lunghi baci e sospiri felici. Non come uomo giace accanto a donna quando la sposa ride piano per amore e per le parole di lui. Ah, non come loro, ma come le anime che furono uccise nei tempi antichi per averla trovata bella. Questa è una delle poesie che uscirono allora in Poemi e ballate. Uno scandalo mai visto. Tutti si scagliano con tale violenza contro l'autore per il cosiddetto contenuto malsano. Certo, i bigotti davano soddisfazione allora, Però al pubblico piace. Tutto questo gran chiasso, come sempre, aiuta il grande successo. Adesso vi leggo dell'incontro tra Swinburne, quarantenne, e il giovane Guy de Maupassant, ai tre età. L'episodio viene riportato nel famoso diario dei fratelli Goncourt, Jules e Edmond, i due grandi memorialisti, i supremi pettegoli, che si amavano solo fra loro, e per loro il resto della letteratura francese erano gli altri, lo stile schiera, tutti. E con questo spirito, per decenni, tennero un diario puntiglioso sui protagonisti letterari, mondani e politici del loro tempo, con una malignità così ispirata e meschina che ancora oggi si legge con grande godimento e ti vede riapparire quelle ombre davanti a te come gente di famiglia. Parla di un giorno da Flaubert in cui si parlava di Swinburne. Da Flaubert si ammira la poesia dell'inglese Swinburne, quando Daudet esclama: «A proposito, dicono che sia pederasta. Si raccontano delle cose straordinarie circa il suo soggiorno dell'anno scorso a Etretat». E allora interviene Maupassant. «Qualche anno fa l'ho frequentato un po'. Interviene Flaubert. Ah, ma già, ma non è stato lei a salvargli la vita? Non proprio, risponde Maupassant. Io ero sulla spiaggia, quando, sentendo le grida di uno che stava per annegare, mi sono buttato in acqua. Ma una barca lo aveva già ripescato. Aveva fatto il bagno ubriaco fradicio. Quando stavo uscendo dall'acqua, inzuppato fino alla cintura, un altro inglese, suo amico, venne a ringraziarmi con molto calore. Il giorno dopo ricevetti un invito a pranzo. L'ambiente era piuttosto strano. Una specie di capanna con dei quadri bellissimi e una iscrizione sopra la porta che al primo momento non lessi. Inoltre c'era una scimmia che saltava dappertutto. E che pranzo! Non mi ricordo quello che ho mangiato. Tutto quel che mi ricordo è che a proposito di un pesce di cui avevo chiesto il nome, il proprietario mi rispose con un sorriso strano che era carne. Ma non riuscii a sapere di più. Non si beveva vino, ma solo liquori forti. Il padrone di casa, di nome Powell, era figlio di un lord. Quanto a Swinburne, immaginatevi un omino col mento forcuto, una fronte da idrocefalo, col torace molto stretto, scosso da un tremito che faceva fare il ballo di San Vito al bicchiere che aveva in mano, e con un modo di parlare da pazzo. Una cosa mi diede fastidio in quel pranzo. Powell, di tanto in tanto, masturbava un po' la sua scimmia, che gli scappava di mano per darmi della gran botte sulla nuca quando mi chinavo per bere. Dopo pranzo, i due amici estrassero delle cartelle gigantesche di fotografie oscene, di grandezza naturale, dove non si vedevano che degli uomini. E Powell mi faceva vedere queste immagini, completamente ubriaco, succhiando di tanto in tanto le dita di una mano umana mozza e disseccata che serviva da fermacarte. Swinburne parla benissimo il francese, ha una cultura immensa, pare che sappia tutto. Poi ci tradusse due o tre dei suoi lavori, mettendo nella traduzione un'attenzione straordinaria. Era molto interessante. Neppure Powell è un uomo comune. Ha portato dall'Islanda una collezione di musiche antiche bellissime. Accettai un secondo invito. Questa volta la scimmia mi lasciò in pace. Era stata impiccata qualche giorno prima dal piccolo servitore e Powell era alla ricerca di un enorme blocco di granito da mettere sulla sua tomba, dove voleva scavare una vasca perché gli uccelli vi trovassero l'acqua piovana per dissetarsi. Alla fine del pasto mi diede un liquore che mi ubriacò del tutto. E allora, preso dalla paura, mi rifugiai in albergo, dove dormii un sonno di piombo. Infine ci tornai un'ultima volta per avere una conferma, per capire se avevo a che fare con degli eccentrici o con dei pederasti. Mostrai loro l'iscrizione sopra la porta, dove era scritto Chaumière de Dolmansé, e chiesi se sapevano che Dolmansé era il protagonista della filosofia del boudoir di Sade. mi risposero di sì. «Allora è l'insegna della casa?» domandai. «Se lei vuole», risposero con delle facce terribili. Avevo avuto la conferma che cercavo e non ci tornai più. Allora, quello che mi incanta in questo episodio è la reazione di Maupassant, che si scandalizza come un pretino, come un piccolo borghese, lui, il libertino. Ed è delizioso questo provincialismo che viene fuori da un tale gruppo di artisti, intellettuali illuminati, così spregiudicati. Però non so perché Swinburne è lo straniero, quindi sospetto, e le sue morbosità fanno reagire Maupassant, Flaubert e i Goncourt come delle signorine paurose. Tra l'altro lui era un omone, descrive questo minuscolo Swinburne, non vedo che paura ci fosse da avere. E comunque la vista delle foto degli uomini nudi lo mettono in fuga. Ora, ai tempi in cui conosce Swinburne, Maupassant è un ragazzo, ma quando lo racconta è un uomo e fa già le orge, offre le sue amanti agli amici ed è allegramente dedito all'amore di gruppo, che poi è anche una forma di omosessualità militante, perché si ha una grande confidenza con gli altri maschi e comunque si compiono degli atti sessuali insieme. E gli stessi Goncourt avevano un amante in comune e consumavano in tre. E poi siamo a Parigi, non è ancora la Belle Époque, ma siamo sull'orlo. E Parigi è comunque la capitale della licenza, e nelle farsi di La Biche da ogni armadio schizza fuori un amante. Le ragazze di 16 anni venivano maritate a dei vecchioni ricchi, tutte nell'alta borghesia e nella nobiltà avevano l'amante, che era non solo tollerato ma a volte quasi favorito dal marito. E poi c'è da dire che Maupassant era un gigante, e un omone come lui non avrà mica avuto paura di essere violentato da Swinburne, che era una zanzara coi capelli. Certo, Swinburne doveva anche essere un po' fastidioso, era troppo credente nella perversione e forse era davvero un po' insopportabile, invasato di quelli che ti vogliono convertire. Maupassant invece era un grande praticante del sesso in maniera vitale, da bisonte, questo grande grosso uomo con una energia artistica e fisica incontenibile, un titano alla Majakovskij. E certo questi estenuati inglesi coi boccoli gli dovevano fare orrore. Maupassant sa tutto dell'uomo, darwinianamente e poeticamente, però coi tormenti la Swinburne non ha pazienza. Intanto però Swinburne è alcolizzato, è sempre ubriaco. Nel 1867, quando lui ha 30 anni, ci sarà una riunione di amici suoi che discutono su cosa si possa fare con e per Algernon. E tra questi c'è Giuseppe Mazzini, che era l'unico a non conoscere personalmente la situazione del giovane poeta, e quando lo viene a sapere dice: «Ma mi faccio carico io di lui e dei suoi interessi culturali». Ma non sarà Mazzini a salvarlo, se vogliamo dare a questo termine il valore relativo che gli davano i suoi amici. Perché accade questo, che dopo la prodigiosa fioritura della giovinezza, Swinburne vivrà gli ultimi 30 anni come un pensionato, come in clinica, in casa di un amico, Theodore Watts Danton, che gli nascondeva la bottiglia, vegliando perché non si ammazzasse col brandy. Allora Swinburne si ravvide, anzi finse di essersi ravveduto, e divenne un rinnegato per debolezza. Però, un angolino di contatto col se stesso vivo, col se stesso vero, gli era ancora rimasto. Un risvolto da tartufo. Tutta questa probità è simulata, cioè fa le diete, beve non troppo per non ammazzarsi, ha sostituito il brandy con la birra, però qualche piacerino, ma veramente dei suoi, se lo permette ancora. Il vecchio penitente sogghigna ancora un pochino tra le rughe. Ogni tanto, nella sua vita di recluso, fischia ancora un colpo di staffile. La cugina Mary, sì, quella dei primi giochi, è ancora qui. E che tenerezza vedere questi due vecchini che continuano i giochi di quando avevano 10 anni, di nascosto, come allora. Di nascosto anche dal suo amico infermiere, che quindi, nella sua posizione di grande benefattore, viene a essere anche il tradito. Però lui, anche così, diciamo, disinnescato, resta sempre un monumento della poesia inglese. Resta quello il cui timbro sentiamo vibrare in tanta poesia del Novecento, per dirne uno D'Annunzio, per dirne un altro Juan Ramón Jiménez, di altre lingue che pure fanno tesoro della sua lezione. Swinburne è un classico moderno, e quindi ha molti ammiratori intellettuali, artisti autorevoli come Thomas Hardy, come George Bernard Shaw, che provano seriamente a fargli avere dei riconoscimenti ufficiali che sarebbero meritatissimi, non riescono a fargli avere il titolo di poeta laureato. Però nel 1908, un anno prima della morte, Swinburne sembra sull'orlo del Nobel. Poi ogni volta scappa fuori qualcuno che dice: chi? Quello sporcaccione, quel pervertito, quel porco, quello che va con le scimmie, perché su di lui se ne dicevano di tutte. E lui non è che si difendeva, cercava semmai di alimentare questi pettegolezzi, perché se ne nutriva in senso umoristico e anche in senso tragico, come era lui. Poi, dopo aver tanto vagheggiato una morte erotica e crudele, una morte con le spine, una morte letteraria, Algernon Charles Swinburne morirà dolcemente il 10 aprile del 1908 con un ultimo, dicono, sguardo d'intesa alla cugina Mary, e morì, così dice la leggenda, mitemente sorridendo. E adesso, su questo grande, discussissimo poeta, ascoltiamo un anglista di grande fama e di grande valore, il professor Franco Buffoni, che abbiamo avuto ospite di recente perché ci ha parlato del suo libro Il servo di Byron, pubblicato da Fazzi, e ci ha fatto questa lectio amabilis sul poeta. Buongiorno, professore. Buongiorno a lei e grazie di queste parole, naturalmente assolutamente immeritate. Allora, Swinburne. Anzitutto lo collochiamo proprio nella seconda metà dell'Ottocento. Swinburne nasce nell'837, che è appunto quando la regina Vittoria sale al trono. Io terrei questa data, 1881, che è l'anno in cui escono i Poems di Wilde. Wilde era più giovane di Swinburne, di un 17-18 anni più giovane, e nell'81 inizia, diciamo, la fase senile di Swinburne. Quindi abbiamo una prima fase vittoriana in cui Swinburne ha proprio la funzione del le patene bourgeois, insomma, ecco, era colui che sbalordiva i vittoriani per i suoi atteggiamenti, appunto il sadomasochismo, l'omosessualità, il lesbismo e quant'altro. Poi gli eccessi che si concedevano non soltanto in poesia ma anche nella vita, alcolismo, sordità, lo colsero a poco più di 40 anni. E quindi la fase senile, poi la vita appunto di Swinburne muore oltre i 70 anni, quindi c'è un trentennio che proprio si apre con questi lui li chiama gli Adieu a Mary Stuart. Questo poema alla regina in qualche modo dà inizio alla seconda fase, che è quella in cui lui recupera i valori in cui è stato educato, perché era stato educato in un rigidissimo anglicanesimo. Era di famiglia molto, molto alta, il padre militare, madre nobile, cresce nell'isola di Wight con il mare davanti, in una bellissima dimora, e recupera un po' di questi ideali. Il Medioevo aveva illuminato la sua fantasia da giovane, ma poi l'aristocrazia inglese e il college lo avevano portato alla corruzione, ecco, tra virgolette, naturalmente usando questo termine. Quindi io inizierei proprio con una citazione da questi Adieu alla regina, alla Maria Stuarda, perché poi c'è anche questo fatto che Maria Stuarda era stata messa a morte da Elisabetta. Ecco. E noi vediamo che in questa poesia, che tra l'altro appunto ha questa andatura già più senile, ad un certo punto salta fuori il lampo. Chiari occhi, parla degli occhi della regina, che l'amore scopre nella lama azzurra d'una spada, affilata per colpire. Dirti addio varrebbe tanto come dirlo alla luce. Questo Swinburne naturalmente non è più quello famoso, anche se poi Swinburne venne candidato più volte al Nobel nel primo decennio del Novecento, quando ancora era in vita, ma non glielo diedero per questa fama sulfurea che si portava dietro, fama sulfurea che appunto iniziò quando era giovanissimo, perché già a 28 anni, 29 anni, pubblicò appunto l'Atalanta, pubblicata nel 65, i Poems and Ballads del 66, che lo portarono a fama, dove troviamo cose come questa Laus Veneris. Ve ne leggo qualche verso, per esempio: fa male ovunque questo amore fiele, svuota le tombe, fa torcere le mani, piangere gli occhi, sospirare il cuore, sta come un segno sulla fronte al mondo, una ferita incisa tra le ciglia, polvere e sangue mostrano le tracce della sua dimora sotterranea, profumo dolce la sua bocca effonde, velenoso come alito di serpe intriso d'erbe. Come chi, nascosto nella macchia, sentendo l'odore di pantera, ne segua le tracce ancora calde e da quella bocca venga morso, e sanguini col viso immerso nella sua dolce gola, così chi segue amore precipita all'inferno, rinchiuso come un viandante nella trappola. Ecco, mentre la pantera ti dà la morte agguantandoti al collo, il tuo viso è immerso in questa pelliccia di pantera. Swinburne dice di detestare Wilde, dice questo ho incontrato questo nulla che non sarà mai nulla, sì, eccetera. Wilde lo accusa di essere uno che posa, certo, a perverso, eccetera. C'è stato uno svolgimento in questo rapporto, però mi scusi, lei stava concludendo un pensiero, questa era una domanda per dopo. No, è opportuno, molto opportuno quello che lei ha osservato, Alberti, perché in effetti erano due prime donne. Wilde capiva che poteva avere fama soltanto se distruggeva quella di Swinburne. E a Swinburne dava fastidio questo, perché gli rubava le tematiche e soprattutto la posizione sociale, perché Swinburne, che appunto nasce nel 1837, quindi il decennio di Swinburne, giovane, aitante e soprattutto oggetto di attenzione, i suoi anni sono tra il 58 e il 68-70, quando Wilde non è ancora sulla scena. Ma diciamo anche, scusi, in maniera ben più graffiante e audace di Wilde. Sì, qui dipende dai punti di vista, diciamo che entrambi erano due persone piuttosto esibizioniste, ecco. Poi Wilde esagera con l'esibizionismo e provoca al punto di diventare lui stesso, perché è lui che convoca al processo, sì, sì, sì, certo, il padre del ragazzo, e poi dopo diventa vittima di se stesso, il processo si ritorce contro di lui. Ecco, da tutto questo, ripeto, Swinburne è fuori perché i suoi decenni sono stati con 20 anni d'anticipo rispetto a Wilde, però ha fatto persino di peggio Swinburne, ecco, questo volevo sottolineare, ha fatto persino di peggio senza mai arrivare al punto legale, cioè senza mai cadere nella trappola di denunciare qualcuno, che la cosa avrebbe poi messo in moto tutta una serie di testimonianze che gli si sarebbero ritorte contro, come appunto accade con Wilde. Quindi adesso un confronto tra i due: indubitabilmente Swinburne è più grande poeta di Wilde, su questo non ci piove, non ci sono dubbi, però forse se noi guardiamo nell'insieme i due artisti, Wilde naturalmente ha tutto l'aspetto di teatro, è l'autore del Dorian Gray, cioè Wilde rimane di più. Wilde è più nella memoria collettiva perché ha fatto più cose. Swinburne ha preso moltissimo da Shelley, in particolare quella capacità del rapporto analogico, cioè di quel passare da un punto all'altro con una rapidità estrema, semplicemente perché c'è il rimbalzo del suono della parola. Se vogliamo trovare un difetto, è ridondante a volte. Ecco, l'epigono italiano, per spiegarmi facilmente, è D'Annunzio. Ecco, D'Annunzio imita Swinburne in tantissimi modi, sia nelle versificazioni, sia nelle tematiche, sia negli atteggiamenti pubblici. Ecco, quindi, che cosa resta di Swinburne oggi? Un grande poeta che la sonorità, ecco, nella lingua inglese questa sonorità è palese, però anche nelle traduzioni si vede questa sonorità, nei brani migliori è ancora assolutamente accettabile, per esempio potrei fare sentire questo pezzettino dalla Ballad of Dreamland, la ballata del paese di sogno, che è una, di una dolcezza assoluta. Lui dice: ho nascosto il mio cuore in un nido di rose, lontano dal corso del sole, l'ho nascosto in un letto di neve più bianca, sotto le rose ho nascosto il mio cuore. Perché non dovrebbe dormire? Perché dovrebbe trasalire se non una foglia si muove nel roseto? Che cosa spinge le ali al sonno? Che cosa lo fa uscire? Solo il canto di un uccello segreto. E poi, se vogliamo chiudere anche il discorso iniziato prima, quello circa la sessualità, allora, era omosessuale, su questo non ci sono dubbi, e sappiamo anche chi sono stati le sue due storie d'amore più impegnative, quella con Richard Francis Burton e quella con Monckton Milnes. Tuttavia, occorreva, diciamo, avere tutto un contorno di fumo gettato al mondo, ecco, però perché poi a noi interessa la poesia, perché poi le vite private sì, perché ci danno la dimostrazione del costume. Beh, non solo, mi scusi professore, io credo anche che questa lieta, in un certo senso, propensione che aveva lui per il serialismo sia fortemente intrecciato ai suoi versi, voglio dire, sia... Certo, no, difatti io sono uno di quelli che sostengono che conoscere la biografia di un autore è importante, assolutamente. Dicevo, volgendo alla poesia, quindi alla cosa seria, una riflessione di questo tipo, potrei citare alcuni versi dalla lirica Ermafrodito, e qui si vede l'intensità con cui valuta questa figura mitologica, ma è sua. Solleva le labbra, volgiti per cercare amore, l'amore cieco della notte che allontana il sonno. Di tutte le cose stanche, le tue labbra sono le più sfinite. Togliti quel sorriso lungo, ammaestrato. I due amori che lottano all'uno e all'altro fiore del tuo petto, finché domina l'uno e l'altro giace. Il loro respiro è di fuoco nell'aria lasciva, fuoco negli occhi e fuoco dove ti si schiudono le labbra. Grande disperazione uccisa da desiderio ardente, questo diviene, con il sangue in fuoco, la vita di chi ti veda così bello. C'è da dire che lui guadagnava molto con la poesia, perché ebbe successo appunto prima dei 30 anni e le vendite dei suoi libri lo portarono a poter avere un reddito al di là della rendita familiare. Poi appunto questa lunga decadenza fisica che però lo vide candidato al Nobel per un decennio, e qui pagò il conto, perché appunto Nobel non glielo diedero perché portava dietro... Beh, meno salato di quello di Wilde sicuramente. Ah, indubbiamente. No, beh, con Wilde entriamo nella modernità, perché Wilde è la vittima. Wilde, io dico sempre che ciò che rappresenta il processo Wilde nell'Inghilterra di proprio dell'ultimissimo anno dell'Ottocento è quanto avviene in Francia tra Rimbaud e Verlaine, e poi bisogna arrivare in Germania a Krupp, ma in Italia tutto questo lo ritroviamo col processo Brabante e con Pasolini, cioè dobbiamo arrivare agli anni 60-70, quindi noi arriviamo con 70 anni di ritardo a questi scandali che sono stati necessari per fare proprio fare il click. Ecco. Qui, dove il mondo è quieto, dove i tumulti sembrano vento che cade, marea che si spegne, in mezzo a incerti sogni di sogni, io vedo i campi crescere per gente che semina e che miete, per la raccolta e per la falciatura, un mondo addormentato di ruscelli. Sono stanco di sogni e desideri, sono stanco di tutto, voglio sonno. La vita qui alla morte per vicina, non erba di palude o di boscaglia, e pallida oltre il portico e la soglia, perché qui giungono gli amori che appassiscono, i vecchi amori dalle ali stancate, e gli anni morti qui si trascinano con tutte le cose malate, i sogni di giorni abbandonati. Don't love, she kneels before the grave, a brave son who gave his life to save us. Questa poesia è stata scritta in onore di Lucrezia Borgia. Nei sogni trovai un luogo di brezze e fiori, e là nel mezzo c'era una donna vestita come l'estate, di ore soavi. La sua bellezza, fervida come luna infocata, in me accese e languidì il sangue. La pena colmava l'azzurro delle sue palpebre, e la greve, triste rosa rossa della bocca, pareva triste per le felici cose perdute. Reggeva per le corde una piccola cetra, a forma di cuore, che per corde aveva i capelli ad arte colorati di un morto suonatore di liuto che in un morto passato aveva fatto cose deliziose. Da questo prendevano il nome le sette corde. La prima corda, la carità. La seconda, la tenerezza. Le altre, il piacere, il dolore, il sonno e il peccato. E l'affettuosa gentilezza, che è parente della pietà e della più impietosa. Questa è una poesia di Charles Algernon Swinburne, il cantore dell'amore, il poeta squisitamente maledetto. Ezra Pound lo chiamava il musico della lingua. Swinburne, dopo la prodigiosa fioritura della gioventù che coincise con la sua sregolatezza, visse gli ultimi 30 anni come in clinica, in casa di un amico che gli nascondeva la bottiglia, vegliando perché non si ammazzasse col brandy. Allora finse di essersi ravveduto e divenne un rinnegato per debolezza, questo amante di Dante, Petrarca, ma anche di Baudelaire, di Walt Whitman, di Giuseppe Mazzini e di De Sade e di Byron. E come Byron ebbe la scomoda gloria di vedere le sue opere al macero o sul punto di finirci per il terremoto che scatenava fra i ben pensanti. Anche lui, come Byron, hanno mancato di rispetto ai posteri, cercando di occultare il suo amore per i maschi o di descriverlo con gran giri di parole. Oh, chi ne scrive dopo la morte deve sempre mascherare gli artisti, normalizzarli, agghindarli come se dovessero prepararli per andare alla messa della domenica, invece che introdurre noi alla loro conoscenza. E in questo nostro tempo così povero, così poco attrezzato per la gioia, ma anche concettuale e linguistica, oggi liquideremo Swinburne con una sola parola, sadomasochista. Come suona misera, offensiva, rispetto all'attenzione così fervida che Swinburne ebbe per la flagellazione e questo balenare di sangue, di ferite, sempre insieme all'amore nei suoi versi. Nei suoi versi e in questo continuo sibilare di scudiscio, scrive Bianca Maria Rizzardi, Swinburne si getta nell'esplorazione del proibito e vi include una realtà da sempre esclusa, l'infinito mistero del sesso, con una esasperazione lacerante, con un'intensità dolorosa. Swinburne, il poeta delle rose. Questo è il seguito della poesia di Swinburne dedicata a Lucrezia Borgia. Va a ballata. Porta fasci di rose tra le braccia, che la rosa più alta ti sfiori la gola, dove la minima puntura di spine fa male. Va dinanzi alla mia donna e dille questo. Borgia, il colore della tua chioma dorata arde in me. Allora, tante quante sono queste rose, baciami tante volte. Allora forse si piegherà, non diversamente da un ramo dirampicante nel vento, e ti bacerà sugli occhi, ballata, e sulla bocca. Questa è Laus Veneris, una poesia di Swinburne, dove sfiora amabilmente anche la blasfemia, parlando di Venere. Lui contempla la dea. E sonno o veglia? Poiché il suo collo, lungamente baciato, reca un segno viola dove il sangue addolorato indugia ed esce, tenera e teneramente punta, più bella per una macchia. Ma sebbene le mie labbra si chiudessero succhiando quel punto, non c'è vena che si mostri nel suo viso. Guardala, e colei che fu la delizia del mondo, gli antichi anni erano tutti in suo potere. Guardala. Era così quando le sue chiare membra seducevano le labbra che ora intristiscono baciando Cristo, macchiate del sangue che cade dai piedi di Dio, i cui piedi e mani dettero prezzo alle nostre anime. Ahimè, Signore, certo tu sei grande e bello, ma guarda le sete meravigliose dei suoi capelli, e tu ci guaristi col tuo pietoso bacio. Ma guarda ora, Signore,